Il terzo anello, ad alta voce. Paolo Bonacelli legge I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas, traduzione di Marisa Zini. Ah, esclamarono un tempo Rochefort e Milady. Siete voi? Sì, sono io. E arrivate, chiese Milady, dalla Rochelle, e voi dall'Inghilterra. Buckingham? Morto o gravemente ferito mentre stavo partendo senza avere potuto ottenere niente da lui, un fanatico lo assassinava. Ah, fece Rochefort con un sorriso, una fortunata coincidenza e che darà grande soddisfazione a sua eminenza. L'avete avvertita? Ho scritto da Boulogne. Ma voi come siete qui? Disse Milady. Sua eminenza, inquieta, mi ha mandato a cercarvi. Sono arrivata soltanto ieri. E da ieri che avete fatto? Non ho perduto il mio tempo. Oh, ne sono convinto. Sapete chi ho incontrato qui? No, indovinate. Come volete, quella giovane che la regina ha fatto uscire di prigione. L'amante del piccolo D'Artagnan, disse Rochefort. Sì, Madame Bonacieux, di cui il cardinale ignorava il rifugio. Una seconda coincidenza, disse Rochefort, che può andare di pari passo con un'altra. Il cardinale è un uomo davvero fortunato. Immaginate il mio stupore, continuò Milady, quando mi sono trovata faccia a faccia con quella donna. E lei vi conosce? No. Allora vi considera un'estranea? Milady sorrise. Sono la sua migliore amica. In verità, disse Rochefort, solo voi, cara contessa, sapete fare simili miracoli. E mi è andata bene, cavaliere, rincalzò Milady, perché sapete quello che succede? No, stanno per venire a prenderla domani o dopodomani con un ordine della regina. Davvero? E chi mai? D'Artagnan e i suoi amici. In verità ne combineranno tante che saremo costretti a ficcarli alla Bastiglia. Perché non l'avete già fatto? Che volete? Il cardinale ha per quegli uomini un debole che non capisco, disse Rochefort. Davvero sì. Ebbene, diteli questo, Rochefort. Diteli che la nostra conversazione alla locanda del Colombier Rouge è stata udita dai quei quattro uomini. Ditegli che non appena egli era uscito, uno di loro è salito da me e con la violenza mi ha strappato il salvacondotto che il cardinale mi aveva dato. Ditegli che avevano fatto avvertire Lord de Winter del mio arrivo in Inghilterra, che anche stavolta per poco non hanno mandato a monte la mia missione come avevano mandato a monte quella dei diamanti. Ditegli che di quei quattro due soli sono temibili, D'Artagnan e Athos. Ditegli che il terzo, Aramis, è l'amante di Madame de Chevreuse. Quello bisogna lasciarlo vivere. Ne conosciamo il segreto, può essere utile. Il quarto, Porthos, è uno sciocco, un vanesio e uno stupido, e non vale la pena che Monsignore se ne occupi, concluse Milady. Sentite, probabilmente non potrò rimanere qui, disse Milady. Perché? Chiese Rochefort. Dimenticate che i miei nemici possono giungere da un momento all'altro, è vero. Ma allora quella donnina sfuggirà a sua eminenza? Bah, disse Milady con un sorriso che era soltanto suo. Dimenticate che sono la sua migliore amica. Già. È vero, posso dire quindi al cardinale, per quanto riguarda quella donna, che stia tranquillo. E basta? Saprà quello che ciò significa. Lo indovinerà, disse Rochefort. E adesso che devo fare? Ripartire immediatamente. Mi sembra che le notizie di cui siete l'autore meritino un po' di fretta. Di certo avete con voi qualche ordine del cardinale. Ho un'autorizzazione a fare ciò che più mi aggrada. Mostratela all'abbadessa e diteli che verranno a prendermi oggi o domani e che dovrò seguire chi si presenterà a vostro nome. Benissimo, disse Rochefort. Non dimenticate di inveire contro di me parlando con la badessa. A che scopo? Io sono una vittima del cardinale. Devo pure ispirare fiducia a quella povera piccola Madame Bonacieux. Giusto. Adesso volete farmi un rapporto di tutto ciò che è successo? Ma vi ho raccontato quel che è accaduto. Avete buona memoria. Ripetete le cose come ve le ho raccontate. Un foglio di carta può andare smarrito. Avete ragione. Che io sappia però dove ritrovarvi, per evitare di correre inutilmente nei dintorni. È giusto, aspettate. Volete una carta? Oh, conosco questi luoghi alla perfezione, disse Milady. Voi? Quando ci siete venuta? Ci sono cresciuta, davvero? Serve a qualcosa, lo vedete, essere cresciuti in un posto. Allora, disse Rochefort, mi aspetterete? Lasciatemi pensare un momento. Sì, ecco, vi aspetterò ad Armentières. Cos'è Armentières? Una cittadina sulla Lys, disse Milady. Non avrò che da attraversare il fiume e sarò in paese straniero. A meraviglia! Ma naturalmente attraverserete il fiume solo in caso di pericolo, naturalmente. E in tal caso, come saprò dove siete? Rochefort, chiese Milady, avete bisogno del vostro servitore? No, è un uomo fidato, a tutta prova. Datelo a me. Nessuno lo conosce. Lo lascio nel posto da cui vado via e lui vi porta da me. E dite di aspettarmi ad Armentières. Ad Armentières, ripeté Milady. Scrivetemi questo nome su un foglietto. Temo di dimenticarlo. Non è compromettente un nome di città, n'è vero? Chi lo sa? Ma pazienza, disse Milady annotando il nome su un pezzo di carta. Mi comprometto. Bene, disse Rochefort prendendo dalle mani di Milady il foglio che piegò e infilò nella fodera del feltro. E state tranquilla, farò come i bambini. Se dovessi perdere il foglietto, ripeterò il nome lungo tutta la strada. Addio, contessa. Raccomandatemi al cardinale, disse Milady. Raccomandatemi a Satana, ribatté Rochefort. Scambiandosi un sorriso, Milady e Rochefort si separarono. Un'ora più tardi, Rochefort partiva sprombattuto, 5 ore dopo passava ad Arras. I nostri lettori già sanno come fosse stato riconosciuto da D'Artagnan e come tale riconoscimento, suscitando nei moschettieri altri timori, li avesse persuasi ad affrettare il loro viaggio. Non appena Rochefort fu uscito, Madame Bonacieux rientrò. Trovò Milady che sorrideva. «Allora», disse la giovane, «è successo quello che temevate. Stasera o domani il cardinale vi manda a prendere». «Chi ve l'ha detto, piccina mia?» «L'ho udito dalla bocca stessa del messaggero. Venite a sedervi qui accanto a me. Eccomi. Aspettate che mi assicuri che nessuno ci ascolti. E perché tante precauzioni? Lo saprete subito». Milady si alzò e andò alla porta, l'aprì, guardò nel corridoio e tornò a sedere vicino a Madame Bonacieux. Allora, disse, ha recitato bene la sua parte. Chi? Chiese Madame Bonacieux. Quello che si è presentato alla badessa come l'inviato del cardinale. Ma come? Recitava una parte? Sì, figliuola. Quell'uomo non era quell'uomo, disse Milady abbassando la voce. È mio fratello. Vostro fratello! Esclamò Madame Bonacieux. Soltanto voi siete a parte di questo segreto, figliuola. Se lo confidate a chi che sia, sarò perduta. E forse anche voi. Oh mio Dio! Ascoltate. Ecco quello che succede. Mio fratello, che veniva in mio aiuto per togliermi di qui con la forza, se fosse stato necessario, ha incontrato l'emissario del cardinale che veniva a prendermi e lo ha seguito. arrivato a un punto della strada, solitario e fuori mano, ha impugnato la spada, ingiungendo al messo di consegnargli la lettera di cui era l'autore. L'altro ha voluto difendersi e mio fratello l'ha ucciso. «Oh!» fece Madame Bonacieux, rabbrividendo. «Era l'unico mezzo, pensateci!» Poi mio fratello ha deciso di sostituire l'astuzia alla violenza. Ha preso le carte, si è presentato qui come emissario del cardinale e, fra un'ora o due, una carrozza verrà a prendermi da parte di Sua Eminenza. Capisco. Questa carrozza è vostro fratello che ve la manda, appunto. Ma non è tutto. La lettera che avete ricevuta e che credete di Madame de Chevreuse, ebbene, è falsa. Come? Sì, è falsa. È un tranello perché non opponiate resistenza quando verranno a prendervi. Ma verrà D'Artagnan. Disingannatevi. D'Artagnan e i suoi amici sono trattenuti all'assedio di La Rochelle. Come lo sapete? Mio fratello ha incontrato emissari del cardinale travestiti da moschettieri. Vi avrebbero chiamato alla porta. Avreste creduto di avere a che fare con degli amici, vi avrebbero rapita e ricondotta a Parigi. Oh mio Dio! La testa mi si smarrisce in un simile garbuglio di iniquità. Sento che se continuasse così, aggiunse Madame Bonacieux, portandosi le mani alla fronte, diventerei pazza. Aspettate, cosa? Sento il passo di un cavallo. È quello di mio fratello che riparte. Voglio dargli un ultimo addio, venite. Milady aprì la finestra e fece segno a Madame Bonacieux di avvicinarsi. La giovane obbedì. Rochefort passava al galoppo. «Addio, fratello!» esclamò Milady. Il cavaliere alzò il capo, vide le due giovani e, sempre di galoppo, fece a Milady con la mano un cenno di saluto. «Cara signora», disse Madame Bonacieux, «scusate se vi disturbo, ma che mi consigliereste di fare? Mio Dio, avete maggiore esperienza di me. Parlate, vi ascolto». «Prima di tutto», rispose Milady, «può darsi che io mi inganni e che D'Artagnan e i suoi amici vengano davvero in vostro aiuto». «Oh, sarebbe troppo bello», esclamò Madame Bonacieux, «e tanta felicità non è fatta per me, allora lo capite. Sarebbe semplicemente una questione di tempo, una specie di gara a chi arriverà primo. Se sono i vostri amici che la vinceranno in rapidità, siete salva. Se sono i satelliti del cardinale, siete perduta». «Oh sì, sì, perduta senza scampo. Che fare dunque, che fare?» «Ci sarebbe un mezzo semplicissimo, naturalissimo», disse Milady. «Quale? Dite. Quello di aspettare, nascosta nelle vicinanze, in modo da accertare chi siano gli uomini che verranno a cercarvi». «Ma aspettare dove?» «Oh, questa non è una difficoltà. Anch'io mi fermo e mi nascondo a poche leghe di qui in attesa che mio fratello venga a raggiungermi. Vi porto con me. Ci nascondiamo e aspettiamo insieme». «Ma non mi lasceranno partire. Qui sono quasi prigioniera». «Siccome credono che io parta per ordine del cardinale, non penseranno che voi abbiate molta premura di seguirmi. E allora? Allora, quando la carrozza sarà alla porta, voi mi direte addio, salirete sul predellino per abbracciarmi ancora una volta. Il domestico di mio fratello che viene a prendermi, opportunamente istruito, farà un cenno al postiglione e via di galoppo. Ma D'Artagnan! D'Artagnan, se viene, non lo sapremo forse. E come? Niente di più facile. Rimandiamo a Béthune il domestico di mio fratello, del quale, ve l'ho già detto, possiamo fidarci. Lui si traveste e si piazza davanti al convento. Se giungono gli emissari del cardinale, non si muove. Se è D'Artagnan con i suoi amici, li accompagna dove siamo noi. Ma li conosce? Certamente. Non ha veduto Monsieur D'Artagnan in casa mia? Oh, sì, sì, avete ragione. Così tutto va bene, tutto è per il meglio. ma non allontaniamoci di qui. Al massimo 7-8 leghe, disse Milady. Ci teniamo vicino alla frontiera, per esempio, e al primo allarme usciamo dalla Francia. E se non mi trovassi con voi quando verranno a prendervi, mettiamo a pranzo o a cena. Dite alla vostra buona superiora che desiderate stare il più possibile in mia compagnia e chiedetele il permesso di dividere i pasti con me. Benissimo. In questo modo non ci lasceremo un momento. Avanti, disse Milady, scendete da lei e chiedetele il permesso. Mi sento la testa pesante, farò un giro in giardino. Andate, dove vi ritroverò? Qui, fra un'ora. Qui, fra un'ora. Siete buona e vi ringrazio. Come potrei non interessarmi a voi, disse Milady, anche se non foste bella e incantevole. Non siete l'amica di uno dei miei migliori amici. Caro D'Artagnan, come vi ringrazierà? Lo spero. Su, tutto è deciso. Scendiamo. E le due donne si lasciarono, scambiandosi un grazioso sorriso. Milady sentiva la testa pesante, perché i suoi piani ancora mal definiti vi si aggrovigliavano in un caos. Aveva bisogno di restare sola per riordinare un poco i pensieri. Vedeva confusamente nell'avvenire, ma le occorreva un po' di silenzio e di quiete per dare a tutte le sue idee ancora confuse una forma distinta, un ordine concreto. La cosa più urgente era rapire Madame Bonacieux, metterla in un luogo sicuro e all'occorrenza farne un ostaggio. Milady cominciava a temere l'epilogo di quel duello terribile nel quale la tenacia dei suoi avversari non era da meno del suo accanimento. D'altronde sentiva, come si sente l'approssimarsi di un temporale, che tale epilogo era vicino e certamente sarebbe stato tremendo. Un dato era acquisito. Madame Bonacieux l'avrebbe seguita senza diffidenza. Una volta nascosta con lei ad Armentières, sarebbe stato facile persuaderla che D'Artagnan non era venuto a Béthune. Dopo 15 giorni al massimo, Rochefort sarebbe stato di ritorno. Nel frattempo Milady avrebbe riflettuto sul modo di vendicarsi dei quattro amici. Non si sarebbe annoiata, grazie a Dio. Avrebbe infatti avuto il più piacevole svago che gli avvenimenti potessero accordare a una donna della sua tempra. Una bella vendetta da perfezionare. Paolo Bonacelli ha letto I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas. Riduzione di Lorenzo Pavolini. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it